Venezia, c'è una città in questo mondo, ma così bella, ma così strana, che pare un gioco di fata morgana, è una visione del cuor profondo, avviluppata in un roseo velo, sta con le sue chiese, palazzi, giardini, tutta sospesa tra due turchini, quello del mare, quello del cielo. Così mutevole a vederla nelle mattinate di sole bianco, splende d'un riso pallido e stanco, di un chiuso lume come la perla, ma nei tramonti rosei affocati è un'arca d'oro, ardente e raggiante, nave immensa velleggiante, a lontani lidi incantati. Quando la luna alta, inargentata, torri snelle e cupole piene, e serpeggia per cento vene d'acqua cupa e sonnolenta. Non si può dir qual che ella sia, tanto è nuova, mirabile cosa, isola dolce, misteriosa, regno infinito di fantasia, cosa di un sogno vaga e leggera, eppure porta mille anni di storia e si corona della gloria d'una grande vita guerriera. Cuor di leonessa, viso che ammaglia, e tu, Venezia, due volte sovrana, pianta di forte virtù romana, fior di tutta l'Italia, di Diego Valeri, Venezia.